l'altra Europa. Buon sabato e buone feste da Federico Taddia, eccoci qua con l'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale dagli studi di Milano di Radio 24, un programma in collaborazione con Euronet.eu, il portale, il network delle radio europee per raccontare la nostra unione da tanti punti di vista diversi, con tante voci diverse. Ci trovate anche su Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure Twitter, @FedericoTaddia, per avere tutti i link in diretta, minuto per minuto. Una puntata particolare, ovviamente, quella di oggi, perché è l'ultima puntata dell'anno, ma è anche l'ultimo giorno dell'anno, e quindi è tempo di inventare, è tempo per guardare indietro quello che è successo quest'anno, ma soprattutto per guardare avanti. Cosa possiamo dire di questo 2011 e soprattutto cosa possiamo aspettarci per il 2012? Insomma, una puntata dove anche noi faremo un viaggio tra passato e futuro per raccontare l'Europa che è stata, che è e soprattutto quella che sarà. Andiamo quindi in giro per l'Europa alla ricerca di quelle che sono state le notizie principali dell'anno appena terminato, dell'anno che si sta chiudendo tra poche ore, e soprattutto quelle che sono le visioni e le previsioni per il prossimo anno. E si parte dalla Francia. Qu'avez-vous dit exactement à monsieur Berlusconi? Est-ce qu'il vous a donné des engagements sur de nouvelles réformes en Italie? Est-ce que vous êtes rassuré après l'avoir entendu, alors que l'Italie est de plus en plus dans la ligne de mire, notamment des agences de notation? Nous étions ensemble dans ce rendez-vous. Beh, ce lo ricordiamo tutti questo sorriso tra la Merkel e Sarkozy, un sorriso che sembra lontanissimo, sembrano passati mesi e mesi, invece insomma è la nostra politica che corre veloce, tanti cambiamenti, però è lì, è stata una delle immagini di quest'anno. E andiamo in Francia per parlare della Francia che è stata e della Francia che sarà, insieme a Eric Joseph, inviato in Italia di Libération. Ciao Eric! Buongiorno. Buongiorno, buone feste anche a te, come stai? Benissimo, benissimo, sperando che il 2012 sarà anche ricco di eventi come quest'anno, ma di eventi anche più positivi, visto che la fine dell'anno è stato segnato da questa crisi economica. Certo, insomma, la crisi che è veramente il filo conduttore della nostra attualità europea. Guardando all'indietro, guardando ai 12 mesi passati, tu cosa ti porti di questo 2011? Qual è secondo te il momento saliente della vita francese? Il momento saliente della vita francese in realtà è legato al momento saliente della vita europea, nel senso che si vede chiaramente che ormai il destino della Francia, come il destino di tutti i nostri paesi europei, è legato a una situazione comune, nel senso che si capisce che nessun paese può fare a meno degli altri, e o affondiamo tutti o ci salviamo tutti, nel senso che si è visto una Francia e anche un presidente Sarkozy che ha cercato di trovare soluzione per limitare i danni di questa speculazione internazionale, ma anche di questa recessione. E il difetto che vedo è che si è cercato di farlo con un metodo intergovernativo e una forma di direttorio con la Germania, senza prima risolvere in tempo il caso greco e abbandonando un po' lo spirito comunitario, che è un spirito essenziale per poter ritrovare appunto una politica comune e veramente porre rimedio alla situazione economica e finanziaria. Certo, mentre nel 2012 Sarkozy dovrà un po' guardare anche forse più dentro i propri confini che il resto d'Europa, perché sarà un anno particolare, un anno impegnativo il 2012. Sì, in Francia il 2012 ovviamente è l'anno dell'elezione presidenziale. In realtà Sarkozy, anche se ufficialmente non è in campagna, è già nella battaglia politica interna. Alcuni delle dichiarazioni o anche dei provvedimenti che prende sono legati a questa scadenza del 22 aprile e del 6 maggio, dunque i due turni dell'elezione presidenziale. Per il momento Sarkozy è dato largamente battuto dal suo avversario socialista François Hollande, che è stato designato dalle le primarie, però tuttavia penso che la battaglia è ancora molto aperta, anche se mai a pochi mesi di un'elezione c'è stato un tale scarto tra i due candidati, perché François Hollande è dato a 57% vincitore al secondo turno e dunque parte con un grande vantaggio, però si sente che l'opinione pubblica francese può muoversi ancora molto, soprattutto che François Hollande per il momento, dopo essere stato designato dalle primarie in modo netto, non ha fatto una buona campagna elettorale e si ha la sensazione che l'offerta politica non corrisponde ancora a tutte le attese dell'opinione pubblica francese, con anche questo in fondo appunto la crisi economica. Sarkozy cerca di mostrare che comunque, malgrado le difficoltà, malgrado le promesse non mantenute, e la sua esperienza, il suo dinamismo, la sua energia sono le migliori garanzie per guidare la Francia nella tempesta economica e finanziaria, però tuttavia ha perso molto della sua capacità di convincimento, anche se, ripeto, la battaglia è ancora aperta. Questo quindi sarà il 2012 francese, sarà presumibilmente una delle notizie del prossimo anno. Ti immagini anche qualche altra sorpresa? Ci sarà qualche evento? C'è qualcosa che attende la Francia? No, la Francia veramente adesso è concentrata su questa elezione presidenziale, però al di là di questa battaglia si capisce che c'è veramente la Francia, come gli altri paesi, aspettano una risposta europea alla situazione, che c'è bisogno di cambiare di paradigma, c'è bisogno assolutamente di trovare un nuovo slancio, e che questo slancio non può essere trovato nei confini nazionali, e dunque da questo punto di vista, sia dal punto dall'aspetto della politica monetaria, si aspetta un cambiamento del ruolo o della BCE, o almeno la capacità di creare dei eurobond, comunque un segnale che non si va a riprodurre soltanto le risposte che sono le risposte di rigore che sono necessarie, ma che non bastano per rilanciare la crescita, e che c'è bisogno proprio di avere una politica economica, una politica di bilancio, una politica industriale a livello europeo. La vera novità è che questa percezione è che siamo a un bivio su un ripiegamento a livello nazionale, oppure un salto a livello europeo, che vuol dire un abbandono di sovranità, e questi sono veramente gli elementi fondamentali che fanno che sono nello sfondo di questa battaglia elettorale. Certo, un passaggio cruciale anche dal punto di vista culturale. Grazie davvero Eric, buon anno. Buon anno a voi. A presto, ciao. A presto. Europost-it. Euronet Awards, and the winners are Andrei Purcarea dalla Romania, Elena Roda e Jessica Verzulli dall'Italia, Falk Steinborn dalla Germania, Aude van den Hove dal Belgio. Questi sono i nomi dei giovani aspiranti giornalisti che hanno partecipato all'edizione del 2011 degli Euronet Awards, mandando i loro reportage audio sul tema dei diritti dei cittadini europei. I loro lavori sono stati scelti dalla giuria internazionale e i 5 ragazzi saranno invitati il 31 gennaio al Parlamento europeo a Bruxelles e premiati in una cerimonia ufficiale con un iPad 2. Tra di loro, durante la cerimonia, verrà scelto il vincitore per eccellenza, che potrà effettuare uno stage in una radio europea del network Euronet con alloggio e viaggio pagati. In bocca al lupo a tutti! L'altra Europa. È un inno all'Europa, un po' disturbato quello che state ascoltando, ed è un concerto che si è tenuto alla Puerta del Sole il 15 ottobre, era l'anniversario della prima discesa in piazza dell'Indignados, che è una delle immagini che sicuramente ha caratterizzato l'anno spagnolo. E per parlare del 2011 in Spagna e soprattutto del 2012 c'è un amico dell'altra Europa, diamo il ben ritrovato a Jorge Marí Rodríguez, capo redattore della redazione internazionale del Paese. Ciao Jorge. Buongiorno Federico. Buongiorno, buone feste. buone feste a te. Allora, l'Indignados, credo come cartolina, come fotografia del 2011 in Spagna. Sì, certamente è stato forse l'immagine più forte del riflesso del malessere degli spagnoli con questa crisi. Poi ci sono state tante altre cose, quali tutti sono finiti con le elezioni, ma questa immagine della gente nella piazza di Puerta del Sol manifestandosi, dicendo che questa maniera di fare le cose non poteva andare più al di là, forse la migliore immagine di quello che è stato quest'anno nella società spagnola. E non solo spagnola, perché da lì insomma questa voglia di protesta anche costruttiva, perché questa è una delle novità, credo, dell'Indignados, poi altri passati, confini, no? Europei e non solo, quindi dalla Spagna è partito questo forte vento, questa richiesta di cambiamento, di rinnovamento, un po' voluto dalla crisi, ma non è solo. Il 2012 invece, cosa vi aspettate, cosa accadrà in Spagna? Io direi che l'anno 2012 è l'anno della paura allo stesso tempo della speranza. La speranza che le cose vadano meglio, che questa crisi, che non è soltanto una crisi economica, ma è una crisi anche sociale, nel senso che forse non si potrà tornare a vivere come prima, con tutto il buono e il cattivo che questo significa, che questa crisi sia passata un po'. Ma anche la paura, perché ci sarà un anno molto duro, c'è tanto da fare, c'è tanto sacrificio vero della gente comune. Voi in Italia lo avete visto già con la benzina a 1,70, con le tasse. E poi qui in Spagna 5 milioni di persone senza lavoro, che non si sa se non soltanto loro troveranno un lavoro, ma se non ci saranno altre persone ancora più disoccupate. Pensa un momento che per creare posti di lavoro in Spagna ci vuole crescere al di sopra il 2% della nostra economia. Le previsioni dicono che non soltanto non sarà una crescita, ma sicuramente una recessione. E questa recessione l'hai colta anche nell'umore delle persone. Hai detto appunto che il 2012 è atteso con paura. È una paura che non lascia spazio proprio alla speranza. C'è una cosa curiosa che sta accadendo, si vede soprattutto in TV. Questo Natale ci sono dei commerciali che stanno dicendo: non permettere che tutto questo ci tolga la nostra gioia di vivere. La gente certamente diciamo che non è molto spiritosa sul futuro, ma allo stesso tempo forse questo è anche buono, perché ci permette di riscoprire piccoli piaceri o il valore di piccole cose che fino a questo momento non avevamo visto, perché eravamo occupatissimi cercando una casa più grande, un lavoro con più soldi e tutte queste cose. Forse la gente sta riscoprendo, e 2012 sarà l'anno della riscoperta dei piccoli valori nella vita comune: una chiacchierata, un bicchiere di vino, una passeggiata. È forse molto semplice questo che dico, ma la gente sta iniziando a riscoprire queste cose. La sobrietà forse come una delle parole che etichetteranno il 2012 anche nel suo significato più positivo, che è quello che hai ben descritto tu. E Jorge, noi sicuramente ci ritroveremo, perché sei una delle nostre voci ufficiali dalla Spagna. Intanto è davvero il nostro miglior augurio di buon anno a te, a tutta la tua famiglia e ai tuoi colleghi. Auguri a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Speriamo che quest'anno 2012 sia un grande anno sia per la Spagna che per l'Italia. E per tutta l'Europa, tenteremo di viverlo insieme. Ciao Jorge, grazie davvero, e continua il nostro viaggio per scoprire l'Europa che sarà. Prossima tappa, i Balcani. Mi spogliamo di accusare da dolje taj proces, dokle dolje, ja ne znam koliko će trajati. Znao najgore. Ja želim da živim i da doživim slobodu, jer ja sam i ovakav kakav sam, branim svoju zemlju i svoj narod, a ne Ratka Mladića. E nei Balcani ci andiamo insieme a Luca Zanoni, direttore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Ciao Luca, buone feste, ben ritrovato anche a te. Buongiorno a voi. Quello che stiamo ascoltando, che cos'è? L'hai scelta un po' come immagine di quest'anno nei Balcani? Ma diciamo che è forse l'evento più più importante, quantomeno mediaticamente, dal punto di vista della giustizia internazionale, che sia accaduto nel 2011, cioè l'arresto di Ratko Mladic, latitante da oltre 15 anni e finalmente consegnato al Tribunale Internazionale dell'AIA. Ecco, era una di quelle notizie che si aspettavano da parecchio tempo e che finalmente è arrivata. www.balcanicaucaso.org è il sito ufficiale di questo osservatorio che segue veramente quotidianamente tutto quello che accade dal punto di vista politico, ma non solo, tanta attualità, tanto costume, tanta cultura lungo i Balcani, e ci piaceva anche parlare del rapporto tra Europa e Balcani, il rapporto che è stato, ma soprattutto cosa ci si aspetta dal 2012, visto che fortunatamente è un rapporto sempre più stretto. Che 2012 sarà per tutti gli stati della penisola balcanica? Ma guarda, io direi che un 2012 con un po' di se e un po' di forse, nel senso che l'allargamento prosegue ovviamente e il Consiglio europeo del 9 dicembre ha in qualche modo ribadito questa cosa con qualche se e qualche forse, cioè abbiamo l'aspetto positivo subito che è la firma del trattato di adesione della Croazia. La Croazia diventerà il 28esimo membro dell'Unione Europea il 1 luglio del 2013. Certo. E quindi ci saranno un paio di anni, diciamo così, di monitoring, però ormai il percorso è diciamo irreversibile. E a gennaio la Croazia avrà il referendum, quindi interno, locale, per diciamo dare questa voto popolare per l'ingresso nell'Unione Europea. Invece così un po' di euroscetticismo, però diciamo passerà senza problemi, penso. Certo, così non è stato invece per la Serbia. La Serbia invece appunto è quel forse, nel senso che è stato spostato lo status di paese candidato che la Serbia si aspettava che avrebbero dato il 9 di dicembre, la richiesta era stata consegnata nel dicembre 2009, ma il vincolo, diciamo l'ostacolo, chiamiamolo così, del rapporti con il Kosovo pesano ancora in modo determinante, è appunto la soluzione o comunque un accordo e un dialogo rinnovato è quello che adesso l'Unione Europea in qualche modo chiede alla Serbia per poter avanzare lungo il percorso. Mentre il Montenegro sta cercando di avvicinarsi, c'è proprio una volontà di entrare in Europa, anche se questa volontà appunto si deve scontrare con i tanti ostacoli di questo percorso. Ma ecco è l'altra notizia diciamo positiva, nel senso che al Montenegro invece lo status di paese candidato è già stato attribuito, è stato rimandato a giugno per determinare appunto la data di avvio dei negoziati, che è un percorso poi sappiamo molto lungo, però se il Montenegro, e qui il se di cui dicevo prima, se il Montenegro rispetterà le riforme in modo particolare in ambito di lotta alla criminalità e alla corruzione, a giugno potrà partire con i negoziati. Ma è solo un desiderio politico, se si può dare una risposta generalizzata senza entrare nello specifico? Cioè, è solo un desiderio politico o c'è comunque anche una voglia di appartenenza, di partecipazione anche dell'opinione pubblica alla vita europea? Questo è un po' più delicato, nel senso che i favorevoli all'ingresso nell'Unione Europea o gli euroscettici si alternano nelle percentuali. Se noi andiamo a pescare per esempio adesso la Serbia, in questo momento dove la condizionalità dell'Unione Europea è ancora molto forte e riguarda una delle cose più spinose per la Serbia, cioè il Kosovo, e allora vediamo che la percentuale degli euroscettici è superiore al 50%, cioè di quelli che non sono favorevoli all'Unione Europea. La stessa cosa era successa in Croazia quando ci fu la sentenza a Ante Gotovina, cioè il generale accusato di crimini di guerra e condannato dal Tribunale Internazionale dell'AIA. In quel caso i favorevoli all'Unione Europea erano scesi al 35%, ma subito dopo tre settimane, erano risaliti al 50%. Quindi c'è questa oscillazione continua. va tenuto presente questa cosa, che spesso i cittadini di questi paesi hanno forti aspettative dall'Unione Europea, e la cosa principale che riguardava i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali era la liberalizzazione dei visti, e questa è arrivata ormai per tutti questi paesi, con qualche clausola, nel senso che potrebbero eventualmente, in caso di forti richieste di asilo, come era stato per la Serbia o per la Macedonia, pensare di reintrodurre i visti, ma per il momento diciamo non se ne parla, anche se se ne è parlato, ma non è attuale, diciamo, la cosa, non se ne sta parlando seriamente di questo. Ecco, c'è una volontà, però non tutti hanno ben chiaro che cosa vuol dire entrare nell'Unione Europea, e questo è anche un po' un difetto dell'Unione Europea, la comunicabilità, cioè un difetto di comunicazione in quello che effettivamente è l'Unione Europea. E in sintesi, invece, concludendo, Albania, Bosnia e Macedonia. Siamo tre stand-by, diciamo. Albania, molto sinteticamente, Albania è ferma per uno stallo politico di politica interna, cioè il blocco tra opposizione e governo, e quindi non riesce a rispettare ancora uno dei criteri di Copenaghen. Sì. La Macedonia è bloccata più che altro dal veto della Grecia sulla questione del nome, e la Bosnia è bloccata da una situazione di stallo politico e istituzionale, non ha ancora un governo dopo un anno e mezzo delle elezioni. Simile al Belgio, però insomma il Belgio è in tutt'altra situazione. Assolutamente, insomma un 2012 è vivace, diciamo così, ci sarà. Vivace, ma c'è comunque l'interesse dell'Unione Europea, seppur mitigato, fatica d'allargamento eccetera, ma hanno proposto la nuova IPA, cioè il nuovo strumento di assistenza pre-adesione, quindi finanziamenti, per 14 miliardi, compresa la Turchia, che verranno destinati a questi paesi con progetti locali. Quindi da un lato c'è la voglia di allargamento, ma non nessuno corre per allargare ulteriormente. Tutto questo verrà raccontato dall'osservatorio Balcani e Caucaso, balcanicaucaso.org, e sicuramente ci ritroveremo ancora qui all'Altra Europa. Ciao Luca, grazie e buon anno. Grazie a voi. Europost-it. Concerto di Capodanno a Vienna, solo una questione di fortuna. Volete assistere all'unico ed inimitabile concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna e scatenarvi live sulle note della Marcia di Radetzky? Beh, non ci andrete neanche quest'anno. Ma se volete tentare di accaparrarvi un biglietto per il 1 gennaio 2013, iscrivetevi sul sito dell'orchestra dal 2 al 23 gennaio 2012. Indicate la categoria dei posti che potete permettervi e aspettate il sorteggio che avverrà nelle settimane successive. Per il concerto del primo dell'anno, i prezzi vanno dai 30 ai 940 euro. Se volete spendere meno, iscrivetevi al sorteggio per le prove del 30 dicembre o per il concerto di San Silvestro. Lì i prezzi vanno dai 20 ai 720 euro. Della serie, i soldi non comprano tutto. Per le cose migliori serve solo molta fortuna. Per informazioni visitate il sito wienerphilharmoniker.at. L'altra Europa. Senhoras e meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. O Partido Social Democrata da Madeira ganhou a sua 45ª vitória eleitoral. Atingiu o objetivo da maioria absoluta no Parlamento da Madeira. Ancora buon sabato da Federico Taddia, continua il nostro viaggio in Europa per raccontarvi il 2011 che è stato e per darvi così qualche visione, qualche prospettiva sul 2012. Lo stiamo facendo con alcuni colleghi che lavorano in alcune delle nazioni europee, amici dell'Altra Europa, e andiamo in Portogallo con Fernando Parata, caporedattore del principale telegiornale portoghese. Ciao Fernando, buone feste. Grazie, grazie, anche per voi. Ti abbiamo accolto con queste parole che sono del re di Madeira, ti ricordi, vero? Che sì. Ha caratterizzato un po' così, e forse non è stata la notizia principale in Portogallo, ma è stato un allegro contorno, un po' surreale, ma ci stava. Che anno è stato per il Portogallo? Comunque rimane, comunque rimane come una cosa importante che si discute ancora questo inizio del 2012. Sì. E che 2011 è stato? Qual è l'evento? Qual è la notizia? Anche lì la crisi, immagino, come... Sì, la crisi, sono tante le notizie, ogni giorno che passa ci sono novità, sempre tagli, più tagli ai stipendi, ai diritti della popolazione in generale, quindi è tutto un mondo sconosciuto per noi, almeno negli ultimi 30 anni non se ne parlava così. Novità assoluta per molta gente che vive giorno a giorno, diciamo. E questa crisi che ha accompagnato il 2011, cosa si aspettano i portoghesi per il 2012? Hanno paura o qualche germoglio di speranza c'è? No, non c'è speranza. Il sentimento generale è che il 2012 sarà ancora peggio dell'11, di quest'anno. E quindi la gente non c'ha, insomma, assolutamente speranza. È un come andare in confronto con lo sconosciuto. Sappiamo che ci saranno più di più in più tagli, però come vivremo quest'anno non lo sappiamo ancora molto bene, perché la gente, i tagli, ci sono già stati grossi tagli, però verranno ancora, la gente vive con difficoltà, ma non riesce ancora a realizzare bene con questi nuovi tagli cosa succederà. Quindi saranno giorni molto difficili. Giorni difficili, si vive la giornata, quindi è anche complicato, no? Immaginare quello che potrà accadere nei prossimi mesi. Tutti i giorni vengono fuori misure nuove, nuovi tagli. Ti posso dare un esempio di questi giorni. Sapevamo già che il 2012 i privati devono lavorare mezz'ora in più ogni giorno, e noi avevamo un sistema per le vacanze dei 22 giorni di vacanze. Si è ora saputo che e poi abbiamo 3 giorni in più che sono una specie di bonus per chi compie il suo lavoro integralmente senza faglie, insomma, e questi 3 giorni in più verranno tolti. Quindi ogni giorno c'è una novità, è sempre peggio. Questa sera allo scoccare della mezzanotte comunque ve li scambierete gli auguri di buon anno? Sì, la tradizione manda così, però poi la realtà ci farà, credo, trovare le difficoltà e farà molto presto dimenticare questo momento festivo di Capodanno. Ho capito. Fernando, grazie davvero come sempre per la tua analisi. Comunque buon 2012 e ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa. Ciao e grazie. Va bene, grazie a voi. Europost-it. Capodanno con doppio spumante, ma solo se siete amanti del freddo. Qual è quel luogo in Europa in cui il Capodanno si festeggia 2 volte, una alle 8 di sera e una a mezzanotte? È la Groenlandia, che facendo parte del Regno di Danimarca celebra l'anno nuovo anche in diretta con la madre patria. Il doppio spumante potrebbe essere una buona scusa per passare un ultimo dell'anno in quell'Europa lontana dall'Europa che offre scenari inimmaginabili e attività uniche nel loro genere. Safari dei buoi muschiati, serate gastronomiche altamente caloriche, spedizioni alla ricerca delle Northern Lights e dell'aurora boreale, workshop sulla cultura Inuit, tour in elicottero, mini crociere sul rompighiaccio, bird watching per avvistare gli uccelli delle nevi e ovviamente la pesca nel ghiaccio. Si vola dall'Islanda e dalla Danimarca. Gli alberghi sono per tutte le tasche, ma la vacanza è esclusivamente per chi non soffre il freddo. Per vedere video, foto e itinerari, visitate il sito greenland.com. Dieses braune Trio haben die deutschen Sicherheitskräfte jahrelang übersehen. Und jetzt zeigt sich die Nation geschockt vom braunen Terror. 10 Menschen starben bei den Angriffen der Neonazis zwischen 2000 und 2007. Seit Anfang November ist eine Frau in Haft, ihre beiden Mittäter haben sich vor dem Zugriff das Leben genommen. Dies geschah in Thüringen, in der ehemaligen DDR. Jetzt aufgefundene Videos beweisen, dass diese Gruppe auch für den Bombenanschlag auf türkische Wohnhäuser in Köln 2004 verantwortlich war. Un servizio che parla di una cellula neonazista è questa, una delle altre notizie che ha caratterizzato invece il 2011 della Germania. Ne parliamo con un altro amico dell'altra Europa. Diamo il ben ritrovato ad Ambros Weibel, giornalista del quotidiano Taz, taz.de, il sito internet. Ciao Ambros e buone feste. Ciao Federico, buona festa a te e agli ascoltatori. Tante le notizie che hanno caratterizzato il 2011 della locomotiva d'Europa, della Germania. Non volevamo parlare di stretta politica o di stretta economia e tu hai scelto questa come una delle notizie che più ha caratterizzato l'anno. Sì, perché credo che non solo in Italia ma anche in altri paesi europei se ne è parlato poco, no? Perché quest'anno è stato, diciamo, l'anno anche del terrore di destra, no? Di un terrorismo di destra dalla Norvegia alla Germania e poi anche è arrivato quest'onda di violenza pazzesca anche arrivata in Italia. Con i fatti di Firenze, ma anche con i fatti di Torino, no? con i Rom. Assolutamente. Tra l'altro in Germania questa violenza, questa cellula neonazista che, al di là del fatto violentissimo, ci sono anche delle strane contaminazioni con i servizi segreti, se non erro. Infatti, diciamo, noi ci chiediamo veramente perché in Germania ogni regione, ogni Land ha un suo servizio segreto interno, proprio suo, no? Così è una struttura molto grande, molto cara. Queste persone non hanno combinato proprio niente, diciamo, e qui ci sono per i più vari motivi. Ovviamente siamo stati in pochi a pensare che veramente ci sia questa cellula che va in giro per la Germania e ha ammazzato 10 persone in un paio d'anni. Però, diciamo, se i servizi segreti non sono capaci di legare questi delitti fra di loro, se anzi, diciamo, ci sono dei casi dove i servizi segreti della Turingia hanno dato addirittura dei soldi ai nazisti per capire bene come si muovono e non ne esce niente fuori, diciamo, questo sicuramente, diciamo, la sconfitta di questo sistema più grande che si abbia mai visto. Sì, assolutamente, e comunque il fatto che non se ne parla mai abbastanza, ma in questo caso se ne è parlato veramente pochissimo, quasi a nascondere il fatto. E ricordiamo, non è solo una cosa tedesca, come hai detto tu, perché questi echi poi di violenza, di razzismo viaggiano per l'Europa. Ambros, invece il 2012, che 2012 ti immagini come la Germania si avvia ad entrare nel nuovo anno? Ma mi dicono, diciamo, i colleghi specialisti che la crisi economica in quest 2012 arriverà anche in Germania. Per essere sincero, questo si è detto già altre volte. Vediamo cosa succede. Ovviamente il 2012 sarà si giocherà la partita finale dell'euro, no? In qualche direzione si muoverà, o penso nei prossimi mesi l'euro fallisce, sì. O ci sarà una politica europea molto diversa da questa presente. Ecco, ma il pensiero comune è quello che comunque la responsabilità di tutta l'Europa pesa sulle scelte tedesche? Sì. No, ci sono due scelte da fare. La Germania deve decidersi se per il paese, se per l'economia, ma anche, diciamo, per uno spirito di questo che dovrebbe essere questo continente, se vuole veramente essere solidale, sì. Si dice così, sì, solidale con gli altri paesi che sono entrati in difficoltà non solo per la loro colpa. La Germania, l'elite o la cancelliera o comunque il governo deve fare questa scelta, se vogliono veramente aiutare o se vogliono se la Merkel vuole continuare a fare la maestra degli altri. Ma c'è un secondo punto che forse è ancora più importante. A tutte le nostre società mancano i soldi, e questi soldi sono negli ultimi 20 anni sono stati presi dai cosiddetti ricchi. Sì. E questi soldi devono rientrare nelle nostre società per poter finanziare le università, le scuole, per dare nuove possibilità ai giovani, per riuscire a scoprire nuove forme di energia, perché così non possiamo andare avanti, perché sennò, diciamo, il clima è già cambiato, dobbiamo fare per forza qualcosa. Allora le nostre società hanno proprio bisogno di questi soldi che sono rimasti nelle tasche di pochissime persone. E qui sarà, secondo me, la grande domanda: come avviene questo? Avviene con scontri violenti, o avviene perché gran parte delle elite, proprio anche la giovane elite, ha capito questo, che non possono andare avanti così, che devono ridare soldi alla società. Questo è l'auspicio per il 2012. Grazie davvero, Ambros. Buon anno a te. Ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa. Federico, grazie a te e buon anno anche a te agli ascoltatori. Ciao. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Αποδέχτηκα την εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά από πρόταση των πολιτικών αρχηγών να σχηματίσω κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας. Επειδή πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κρίσης και στην ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Η τιμή είναι μεγάλη και η ευθύνη που αναλαμβάνω είναι μεγαλύτερη. E dalla Germania passiamo alla Grecia, lo facciamo con il discorso del neopremier Papademos, un discorso alla stampa poche ore dopo appunto la sua presa del governo. Con noi Tania Bosanino, giornalista greca di origine italiana, scrive per il giornale Tovima. Ciao Tania, buone feste anche a te. Ciao. Ciao Tania. Un anno di sacrifici, il 2011, è quella la parola che ha accompagnato la Grecia, non ci sono dubbi, o ci sono anche altre sfumature che hanno accompagnato quest'anno? Soltanto sacrifici e crisi, quindi nient'altro. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con l'Altra Europa, il nostro giro di voci europee insieme ad alcuni colleghi che ci stanno raccontando quella che è stata un po' la notizia, la parola chiave dell'anno, ma soprattutto cerchiamo di guardare anche in prospettiva. Tania Bosanino del quotidiano Tovima, siamo in Grecia. Tania, il 2012 qual è l'evento che potrebbe caratterizzare quest'anno, e c'è qualche segno di speranza per una possibile svolta o no? No, è il contrario, non c'è nessun segno di speranza, perché il settore privato, i salari del settore privato adesso hanno cominciato a essere ridotti, allora i risultati saranno molto, molto duri per l'anno, per il 2012. Allora nessuna speranza, ma aspettiamo sacrifici più duri che dell'anno 2011. Attualmente c'è un governo tecnico, ma il 2012 dovrebbe essere anche l'anno delle elezioni. Sì, ma il governo tecnico è un governo che è supportato di una coalizione di 3 partiti socialisti, la destra e l'estrema destra. E questo governo potrà crollare a qualche momento. ci sono dei conflitti terribili entro i tre partiti che sopportano Papadimos. Il Papadimos lui stesso dice che non può lavorare in queste condizioni. Allora le elezioni ci saranno sicuro, le elezioni, non sappiamo quanto e non sappiamo se questo governo potrà sopravvivere. Quindi un clima di assoluta indecisione è quello che sta caratterizzando questo cambio d'anno in Grecia. E rispetto all'Europa, qual è un po' l'opinione? Cioè l'Europa può dare una mano, è quello che sentono i cittadini, o l'Europa comunque spaventa? I greci sperano che l'Europa darà una mano, ma non sono sicuri che... perché dentro l'Europa anche ci sono dei conflitti entre Berlino e Parigi, o non sperano tanto dell'Europa anche. E grazie davvero per averci dato insomma un ritratto molto duro ma molto reale di quella che è la situazione. E grazie davvero Tania, comunque buon anno e ci ritroveremo qui sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. E continuiamo a parlare di Europa e dei rapporti anche complicati tra una nazione e il resto dell'Unione Europea, e parliamo dell'Inghilterra. Tante le notizie che hanno caratterizzato quest'anno, non solo il matrimonio del principe ma soprattutto gli scontri che appunto hanno così abbiamo raccontato, li abbiamo seguiti, sono stati un momento anche di presa di coscienza e di riflessione per i cittadini inglesi, per capire il 2011 che è stato, ma soprattutto il 2012 che sarà. Con noi c'è Peter Popham, corrispondente in Italia di Independent. Ciao Peter. Buongiorno, buon anno anche. Buon anno a te, come stai? Sto bene, grazie. Mi fa piacere. Allora, Peter, Inghilterra e resto d'Europa, cosa accadrà nel 2012 secondo te? Secondo me non sarà un altro evento come qualche settimana fa l'ha fatto Cameron a Bruxelles. Ha capito anche Cameron e il suo governo che non possiamo staccarci troppo dall'Europa anche in questo momento di crisi. Noi siamo, anche se c'è la mancia, noi siamo troppo vicini per essere nemici ancora, e sarebbe un grave errore per farsi. Certo, pensi si sia pentito? Cameron credo di no, perché è risolto un problema politico domestico in cui quasi tutti i primi ministri del partito conservative di Inghilterra si trovano prima o poi, cioè c'è un grande, ma non so se una maggioranza, non è una maggioranza, ma è una fetta importante del partito che è sempre molto diffidente sull'Europa. Lui ha fatto un grandissimo favore a loro, perciò ha guadagnato un po' di tempo politicamente in Inghilterra. Cioè per lui non rimpiange questa cosa, ma io credo che non farà un altro passo di questo tipo, almeno non subito. Peter, nel 2012 non solo l'Europa guarderà l'Inghilterra, ma sarà tutto il mondo a guardare l'Inghilterra, in particolare quest'estate, perché ci saranno le Olimpiadi e sarà un momento di svolta per l'Inghilterra, per gli inglesi. C'è attesa, credi che potrebbe significare qualcosa di più oltre all'evento sportivo? Difficile a dire, devo dire, ma Londra come sicuramente lo fa, è sempre una città molto vivace, con un'economia che continua a crescere, con una cultura molto vivace. Purtroppo è diventato troppo grande, adesso abbiamo il problema a Londra del successo, perché c'è un influsso di turisti e di altre persone che è quasi impossibile per una vecchia città a contenere. Perciò con in questo momento gravissimo di crisi, credo che non anche l'Olimpiade di Londra non cambierà tante cose, purtroppo. Grazie davvero, Peter, per averci dato il tuo contributo. Buon anno di cuore. Ci ritroveremo sicuramente qui ai microfoni dell'Altra Europa. Ciao. Grazie, ciao. E con questa esultanza raggiungiamo l'ultima tappa del nostro viaggio in Europa per raccontarvi il 2011 che è stato e il 2012 che sarà. Siamo in Danimarca, con noi Lisbeth Davidsen, giornalista presso il canale televisivo TV2. Ciao Lisbeth, buongiorno. Ciao, buongiorno. Hai riconosciuto questa esultanza? Sì, come no, urla, ce l'abbiamo fatta. E appunto, ricordaci che è stato un po' l'evento forse dell'anno lì da voi. Come no, il primo ministro femminile che abbiamo nella storia danese, quindi è stato un evento importante. Ma un altro evento importante aspetta la Danimarca, perché da domani inizia il semestre di guida europea, perché la Danimarca succede alla Polonia. Quali sono le sfide che vi aspettano e come ci si è preparati a questa data? Ma se proprio partiamo dalla signora che abbiamo appena ascoltato, Helle Thorning-Schmidt, il nuovo primo ministro, qui è una vera una donna veramente europea. Lei ha cominciato la sua carriera politica nel Parlamento europeo e quindi è una persona che ci crede molto nell'Europa. Le sfide, ovviamente, ci avete messo un po' anche voi italiani a darci una sfida, perché l'economia è la sfida, diciamo che gli occhi sono puntati verso il sud Europa con tutti i problemi di debito pubblico e crisi dell'euro, e quindi l'economia è senz'altro l'argomento che sarà più importante in tutta questa presidenza. Però c'è da dire che la Danimarca in un certo senso non è che può fare tantissimo, perché è comunque Herman Van Rompuy, il belga presidente del Consiglio europeo, che deve mettere d'accordo i paesi per questo nuovo patto sull'euro, e quindi da questa cosa siamo un po' fuori. Certo, ecco, ma quando prima hai accennato allo spirito europeo, perché spesso no, l'Europa viene ricordata solo per la crisi, per l'economia, per la politica, noi cerchiamo anche di sottolineare questo spirito, è uno spirito che lì viene respirato, cioè i danesi credono nell'Europa? Ma diciamo che c'è una grande crisi in questo senso adesso. I danesi sono sempre stati un po' scettici già prima, perché non ci credono molto in queste strutture sovranazionali, anche perché è un piccolo paese con poco meno di 6 milioni di abitanti, e quindi abbiamo una democrazia che è molto basata sulla vicinanza tra popolo e potere. Perciò i danesi sono sempre stati un po' scettici, e in questa fase c'è chi pensa che è ancora più difficile, proprio perché vediamo le differenze di vita, di modo di fare tra nord e sud, che a molti danesi spaventa, e questa situazione spaventa. Però proprio il nostro primo ministro, Helle Thorning-Schmidt, è una che ci crede tantissimo in Europa, e il ruolo che lei cercherà di avere in questa presidenza è proprio quella di creare ponti fra i paesi, perché lei è anche da brava socialdemocratica, è una che ci crede nell'impegno comune, cioè tutti ci devono mettere qualcosa, e poi alzando insieme si può arrivare da qualche parte. Lei non crede negli egoismi nazionali, e quindi lavorerà per unire tutti. Speriamo, insieme al miglior auspicio per il 2012. Grazie davvero a Lisbeth Davidsen. Prego. Ciao Lisbeth, buon anno. Buon anno a voi. E questo buon anno anche a tutti voi che siete stati in nostra compagnia in questa ultima puntata. Un buon 2012 dallo staff dell'Altra Europa, Margherita Ine, Viola Afrifa, e oggi alla parte tecnica Valeria Bernardi. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo alle 10. Ancora ciao da Federico Taddia.